un'altra sfornata di capolavori che raccontavano che potessero raccontare la terza età. L'ultima volta con Lucio, una delle ultime volte, abbiamo addirittura parlato di come potevamo essere seppelliti noi che facciamo musica, che siamo artisti, una volta si diceva. Quindi quello che avrebbe potuto fare ancora, regalarci ancora. Quello che avrebbe potuto fare ancora, perché lui ogni tanto aveva dei guizzi, si innamorava di una cosa e scaturiva un filone nuovo, come è successo quando improvvisamente abbiamo visto che lui ci faceva una delle canzoni napoletane più belle, classiche, d'autore, che era Caruso. Era una canzone molto diversa da quella che aveva fatto altre volte. Anche se in lingua, quella è una bellissima canzone napoletana da mettere nell'archivio della canzone napoletana bella d'autore. E forse avrebbe cantato i problemi della nostra età. E cominciano a volare con tre salti, sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana. Dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. Caterina Caselli, ma se dovesse definire Lucio Dalla in una parola, cosa direbbe? Non si può definire in una parola, onestamente non conosco, non sono così brava in italiano per esprimere quello che era. Lui insomma, era veramente tanto in tutti i sensi, una persona veramente curiosa e andava a fondo alle sue sollecitazioni. La canzone di Lucio Dalla che preferisce? Dunque, non è che l'ha scritta lui, ma quella canzone mi fa venire i brividi tutte le volte a Piazza Grande. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io. Senza Lucio, documentario sulla vita di Lucio Dalla a 3 anni dalla morte, nelle sale il 4 e 5 marzo. Regista del film è Mario Sesti, critico e giornalista cinematografico. Quale Dalla ha deciso di raccontare? Ecco, questa è una bella domanda, nel senso che Lucio Dalla è un personaggio estremamente conosciuto per il fatto di essere stato uno dei cantautori di maggior successo dell'Italia contemporanea e di essere stato un personaggio pubblico e televisivo. In realtà la scelta che abbiamo fatto noi, e che ho fatto io in particolare, avendo avuto la fortuna di frequentarlo per una ventina d'anni, è un grandissimo amante di cinema, ed anche per questo ci siamo conosciuti, è un Lucio credo poco noto, quello che era molto amico di artisti come Luigi Ontani e Mimmo Paladino, quello che discuteva a lungo di questioni spirituali e religiose con un teologo come Enzo Bianchi, quello che ha insegnato a Toni Servillo e a Beppe Servillo a cantare, a Toni Servillo e a Beppe Servillo a recitare, quello amatissimo da Charles Aznavour, da John Turturro, da Isabella Rossellini, da una grande rockstar come Paolo Nutini. L'idea è stata proprio quella di raccontare quella parte di Lucio che era una specie di iceberg sommerso, no? Noi, è come se ne avessimo conosciuto solo una piccola parte, importantissima naturalmente, che era stata già raccontata giustamente da coloro che sono stati i suoi compagni di strada, soprattutto nella musica italiana. Il film nasce proprio da questa idea, di raccontare quella parte di Lucio non conosciuta. È un racconto intimo su Lucio Dalla? Credo proprio di sì, nel senso che poi il Virgilio, comunque la persona di cui ci siamo serviti, è stato Marco Alemanno, un po' come Watson che racconta Sherlock Holmes. Abbiamo adottato un punto di vista di estrema prossimità, ma molto particolare. In realtà, se devo essere sincero, il film che appunto ha avuto una particolare notorietà, visto che è stato prenotato da quasi 200 esercenti e ci sono già le prenotazioni online per il 4 e il 5, nasce proprio da questa idea molto, credo, largamente condivisa, che quando è morto Lucio Dalla tutti ci siamo sentiti un pochino orfani, come ci si fosse mancato qualcosa, e quindi il film vuole rievocare, condividere con maggior numero situazione possibile, questa sensazione di rammarico, di nostalgia, la possibilità di vedere ancora il mondo con gli occhi di Lucio, tant'è vero che ci sono alcuni due posti che lui amava tantissimo, cioè l'Etna e le Tremiti, che abbiamo rifilmato. Sì, ci sono molti luoghi nel documentario, ma sì. Lucio però non amava parlare della sua vita privata, giusto? Ecco, questa è un'osservazione molto giusta, nel senso che c'era una grande... Cioè la personalità più misteriosa, l'aspetto più forse che viene fuori dal film e che abbiamo scoperto facendo, perché da una parte Lucio era la persona più comunicativa, più disponibile, più accessibile. A me è capitato tantissime volte di andare in giro con lui, e se qualcuno si avvicinava con un cellulare per una foto gli diceva: guarda, te lo stavo chiedendo io. Dall'altra però ci sono alcuni particolari della sua vita, la sua vita sentimentale, il suo orientamento sessuale, la sua vita privata, le origini della sua paternità, sulle quali lui ha sempre mantenuto un grande riservo e a volte ha collaborato, allora, un po' come faceva Fellini sul mistero. E quindi direi che il film cerca di giocare con questo mistero un po' come ha fatto lui, e quindi così come ha fatto appunto con la famosa copertina in cui sul panorama di Manfredonia c'è una freccia che dovrebbe indicare il posto in cui qualcuno è nato il 4 marzo, e con tutti i riferimenti alle allusioni alla sua biografia, e dall'altra cercare di celebrare, di ricordarlo con questo film insieme a tutti quanti che lo hanno amato. Ma Mario Sesti, il racconto è affidato a Marco Alemanno, compagno di vita di Dalla, però non appare quasi mai sullo schermo. Perché questa scelta? Beh, innanzitutto perché i veri narratori sono quelli che si affidano alle parole, quindi c'è la sua voce, no? Dall'altra abbiamo voluto rispettare un desiderio che era quello di Marco, il quale, come dice alla fine del film, ha fatto tutto questo semplicemente per non tenere nel cassetto tutto ciò che lui ha vissuto a Lucio: la vita, i viaggi, le sorprese, la grande ansia continua di fare delle cose, dal teatro al cinema, alla poesia, alla scrittura. Dall'altra in realtà compare un attimo alla fine, in una fotografia finale, sì. E crediamo che quel punto di intensità è ciò cui il film vuole arrivare per raggiungere lo zenith proprio di questa sensazione di nostalgia e rammarico di cui parlavo prima. Anche la voce di Dalla è assente e le sue canzoni ci sono, ma cantate da altri artisti o anche gente comune. Perché? Il film somiglia molto al suo titolo, Senza Lucio. Noi volevamo che ci fosse tutto il mondo, l'aura, la nostalgia per Lucio, sapendo che Lucio non c'è più. Il movimento giusto, secondo me, che il film dovrebbe riuscire a fare è far sentire di nuovo fortissimamente questa sensazione. Poi uno va a casa, mette nel lettore del CD, tutti quanti abbiamo dei CD di Dalla, e gli spara al massimo, diciamo, no? Sarebbe stato secondo noi inutile fare un film per mettere le canzoni di Lucio Dalla che tutti quanti abbiamo a casa e tutti noi conosciamo bene. Il movimento che vorremmo che riuscisse a imprimere il film nello spettatore è proprio di caricarlo di questa sensazione di nostalgia, di affetto, è la stessa sensazione un po' di dolore e di dolcezza che abbiamo per le persone care, in maniera tale che poi uno può riascoltarle con ancora più emozione, con ancora più desiderio, con ancora più nostalgia. Grazie Mario Sesti, allora con il documentario Senza Lucio nelle sale dal 4 marzo. Grazie a voi. G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. Vi ha presentato Mix 24.